quelli che han bisogno di un cantante per mettersi da parte i giorni andati, per quelli che han capito in un istante di non essere arrivati. Son partiti e non sono più tornati, per quelli che il mestiere è dare il tempo, ma poi di tempo ne hanno sempre poco, per quelli che rifuggono dal centro con l'ennesimo trasloco, per quelli che stanno sempre al gioco. Quelli che il soffitto son le stelle, per quelli che non sanno dove andare, per quelli che hanno scritto sulla pelle che han paura di invecchiare, per quelli che non vogliono aspettare, per quelli che ci girano sempre intorno, che andare dritto è sempre un po' peccato, quelli che han cambiato un po' col mondo, ma il mondo non c'è stato. Ci han provato, ma il mondo non c'è stato. Per quelli con il gesso e la lavagna, quelli che ci credono per davvero, per quelli che si spingono in montagna per avvicinarsi al cielo, per quelli che non trovano il sentiero, per quelli con la scusa sempre pronta ed un bisogno immenso di pianura, per chi davanti al sole che tramonta ha sempre un po' paura, per quelli che han cambiato accordatura. Per quelli sempre pronti ad incassare, per quelli col Vangelo sempre in mano, per quelli che hanno voglia di osservare le cose da lontano, per quelli che è meglio il primo piano, per quelli che son troppo puntigliosi, per quelli che han finito di cantare, per quelli che son sempre più orgogliosi di guardarsi poi attaccare, per quelli che son stati ad ascoltare. Che erano rose di questi rosetti. Arrivo anch'io. Microfono a posto? Me ne faccio io una delle mie? Non è che mangiamo un bicchiere di rosso? Chi l'ha detto? Andiamo? Pace! Andiamo a fare un caffettino al brucio? Io sono una persona così che vivo la vita giorno per giorno. Bisogna andare fuori. No, fuori nel senso, bisogna andare fuori di testa. Attenzione ai pazzi. Voi siete matti. Io sono matto. No, ma io sono bravo, ma sono cattivo, credimi. Sapete perché? Perché i pazzi dicono, ma oggi io saremo, noi siamo i migliori, lo sapete perché? Perché abbiamo fatto così a brucio. Non si può sbagliare quando si fanno delle cose belle. E io gli ho detto, stai attenta, gli ho detto, perché io magari potrei anche, magari metterti in gattabuio, ma stanno te, c'è un bastardo maledetto, sì? Quello che mi piace, quando mi dici bastardo maledetto. Ma chi questa? Mia sorella. Se questione di fare un concerto, penso se no non ci sono problemi, però ci dobbiamo preparare bene, perché se andiamo lì a fare i pagliacci, sono tutti bravi a fare i pagliacci. Pensa se lui è libera, e allora crea qualcosa a testa di cazzo. E se va bene per noi sei, e tu non devi dire di no. Loro non possono dire di no. Loro non possono dire di no. Assolutamente non possono dire di no. Ma di no per quale motivo? Non si può per quale motivo? Allora mi dici il motivo. Come? Di no perché? Perché i giovani purtroppo, io non voglio offendere nessuno, perché io t'ho detto, c'ho una certa età. Se non chiedete un cazzo, quelli lì se ne spaccano i coglioni. Stiamo facendo una guerra, ragazzi. Chi vince? Io. Perché lui non organizzerà mai un cazzo, lui prende solo i soldi. Dico, adesso cosa fai? Vuoi denunciarmi? Tu non mi puoi denunciare, perché tu devi dare la possibilità ai ragazzi, ai giovani, che ma si questo esibì. È giusto. No, è giusto di più. Ma cosa mi viene a raccontare la roba a fare a me? Hai visto che altri fumare, ma chi cazzo sei te? Certo che sei uno stronzo. Di più, mi devi dare anche i soldi, testa di cazzo. Perché sennò diventi un disgraziato, un vecchio bastardo. Io delle bestie selvatiche. No, mi devi dire sì. E devi darmi anche i soldi. Perché non mi devi dire di no, perché sennò diventi un SS, diventi un razzista, diventi un bastardo maledetto. Tu non mi puoi dire di no. Non mi puoi dire di no. Invece voi dovete andare da lui. Guarda che oggi, stasera, vogliamo organizzare un concerto in piazza. Subito, se no ti faccio vedere i gatti fumare. Cosa? E cosa hai visto i gatti fumare? Testa di briscola. Ma loro rimangono nel buio. Figura. E se la gente non si muove, loro rimangono sempre nel buio. Bisogna svegliarsi nella vita, ragazzi. Credetemi, bisogna svegliarsi nella vita. Perché se rimanete sempre così, rimanete sempre così. L'importante è... È l'importante andare. Sai perché siamo già arrivati? Perché va bene. Perché va bene. Siamo già arrivati. Non c'è bisogno di nessuno che dice ma... La piazza è nostra.